14. Il serpente rosso. Dopo il primo momento di confusione, la scuola venne organizzata rapidamente. Le lezioni iniziavano subito dopo il servizio delle 9 nel tempio. Anna doveva parteciparvi per accogliere i suoi allievi. Il lungo tavolo, intarsiato e con ricche dorature, sul quale i piccoli principi e le principesse studiavano, era lo stesso su cui venivano posate le offerte in cibo per i sacerdoti di Buddha. Per il breve periodo del servizio, l'oscurità del vasto tempio era rallegrata dai ricchi colori delle sete e dei velluti, dall'oro e dai gioielli dei regali dei fedeli e dal color zafferano intenso delle tuniche dei sacerdoti. La mattina era dedicata completamente ai figli del re e alcuni ben presto dimostrarono che sarebbero diventati eccellenti studenti. Al pomeriggio tutte le donne interessate venivano incoraggiate dal re a partecipare alle lezioni. Comunque, non si presentavano mai regolarmente, a eccezione della giovane donna pallida che Anna aveva notato il primo giorno. Veniva ogni pomeriggio e si inginocchiava vicino a suo figlio o si appoggiava alla sua spalla, studiando con grande concentrazione. Ci volle un po' perché Anna riuscisse a conquistare la sua fiducia, tanto da chiederle il nome. Era incredibilmente affascinante. Si chiamava Son Clean, profumo nascosto. Anna percepiva la dolcezza che si nascondeva sotto l'aspetto sobrio della concubina e pensò che aveva un nome decisamente appropriato. Ma era troppo saggia per dedicarle un'attenzione particolare che sarebbe balzata immediatamente agli occhi gelosi delle altre donne dell'harem e avrebbe aggiunto in qualche modo altro dolore a quello che Lady Son Clean doveva già sopportare. Una volta che la routine della scuola fu organizzata, Anna ebbe tempo per studiare quello che la circondava. Il palazzo e soprattutto l'harem erano un mondo a parte. Quando Anna e Luis ogni mattina entravano dal grande portale doppio, si lasciavano alle spalle il mondo comune ed entravano nel regno riverberante di luci delle mille e una notte. I primi luoghi che Anna esplorò furono i 3 templi attorno ai quali era cresciuta la città di Nang Ham o delle donne proibite. Erano stupefacenti. Quello in cui insegnava Anna si chiamava il Tempio delle Madri dei Liberi e una volta era stato dedicato alla madre di Buddha. Il secondo tempio era dedicato al Buddha onnisciente e il terzo al Buddha infinito. L'effetto di questi edifici non era diverso da quello di alcune grandi cattedrali del sud della Francia. Avevano tutti una pianta quadrata di 60 metri, circondati da doppie file di finestre, fiancheggiate da pilastri e coperte da una volta a spirale. Al centro di ogni lato si ergeva un alto vestibolo che terminava con un'immensa facciata a timpano. Questi vestiboli trasformavano i templi in grosse croci greche, i tetti si stringevano in terrazze sempre più piccole e formavano delle guglie a piramide che ricordavano gli Shivalas Hindu. E queste, a loro volta, erano coronate da guglie dorate che si alzavano a più di 150 metri dal suolo. L'interno era formato da 2 corridoi concentrici con ampie nicchie per le statue in piedi, sedute e in atteggiamento di preghiera. L'elemento avvolta nella stanza principale di ogni tempio, dove si trovava la statua più importante, raggiungeva il secondo o il terzo livello del soffitto. Da una piccola finestrella nel tetto scendeva sulla testa del colosso un fascio di luce con un effetto meraviglioso. Nessuno sembrava in grado di soddisfare la curiosità di Anna sull'origine dei 3 magnifici templi, anche il nome del costruttore era stato dimenticato. La gente, a cui chiedeva, rispondeva vagamente che, secondo la tradizione, i templi erano lì da più di 1000 anni, eretti in quello che una volta era stato un boschetto di olivi e palme. Il primo re della dinastia Chakri, che era salito al trono vacante in seguito ai saccheggi delle guerre con la Birmania, grazie all'abilità più che a sangue reale, aveva scelto il luogo dei 3 templi come sede del proprio governo. Aveva ordinato che venisse spazzato via il villaggio dei commercianti cinesi che lo circondava e aveva spostato il palazzo dalla riva occidentale a quella orientale del fiume Chao Phraya per fondare la città di Bangkok. L'aveva circondato di 3 mura e l'aveva chiamato la grande città degli angeli. Ogni volta che Anna sedeva nei portici di questi templi, mentre le preghiere dei fedeli riecheggiavano nei corridoi, veniva colta da un senso di profonda meraviglia. L'aspetto degli edifici era sublime, l'architetto vi aveva sagomato dentro una triste sincerità e la pietra aveva dato vita alla bellezza. Ogni volta che passava nei corridoi scarsamente illuminati e silenziosi e si trovava improvvisamente davanti a una delle statue dorate, nell'oscurità del crepuscolo che non finiva mai, con la testa e le spalle illuminate da un alone che proveniva da una invisibile fonte in alto, era costretta a fermarsi. Il Buddha, immobile, con le braccia incrociate e le palpebre abbassate, che guardava in basso su di lei con malinconico rimprovero, aveva la saggezza dei secoli stampata in fronte. Tra i suoi allievi nessuno attirava Anna quanto il principe Chulalongkorn e la sua graziosa sorellina, la principessa Chantaramonton, che tutti chiamavano Fa Ying, principessa celestiale. Erano entrambi bambini incredibilmente intelligenti. Il principe Chulalongkorn, Fa Yin e i loro due fratellini vivevano con una prozia nel Tamnak Tuk, uno dei palazzi più imponenti dell'interno. La loro giovane madre, la regina, era morta l'anno prima e la principessa Lamom si occupava di loro. La vecchia principessa era una donna tranquilla, attratta da tutto quello che era bello e brillante, era sempre occupata con i suoi fiori, la poesia e con i figli della nipote. La piccola Fa Ying era la preferita e dopo di lei il giovane principe ereditario. La sua casa era molto grande, piena dei figli dei suoi fratelli, di nipoti e amici. Anna e lei avevano avuto molte piacevoli conversazioni sull'educazione del principe Chulalongkorn. La vecchia principessa aveva stupito Anna fin dall'inizio con la richiesta di instillare nella mente del giovane principe le basi della fede cristiana, i suoi principi e precetti. Lei non faceva distinzione tra la sua religione e quella di Anna e desiderava solo che il suo giovane fardello avesse a disposizione ogni strumento che potesse renderlo più forte per aiutarlo ad affrontare quello che sapeva lo aspettava come re. Era estremamente scrupolosa nelle sue preghiere e aveva la freschezza e lo zelo religioso di una giovane. I bambini in sé non erano un problema, erano intelligenti e deliziosi e la piccola Fa Ying era una bambina leggiadra. Non solo era la favorita della prozia ma anche del padre. Sin da piccola al re piaceva averla vicino, durante i pasti la teneva sulle ginocchia e la portava in viaggio anche fino ad Ayutthaya. Anche il principe Chulalongkorn era estremamente attraente, né troppo alto né troppo basso, ma piacevole. Studiava con interesse ed era sereno e gentile come ci si aspetta da un ragazzino siamese ben educato. Era molto affezionato alla vecchia zia e alle sorelle e fratelli più giovani. Studiava molto e sembrava superare gli ostacoli con una determinazione che guadagnava forza mentre la sua mente guadagnava idee. Ogni nuova idea gli permetteva di scoprire quanto fosse scarso il suo sapere e quanto infinite fossero le possibilità intellettuali. L'ombra del trono, che gravava già su di lui, lo aveva privato di ogni amore infantile per il gioco. La vita per lui sarebbe stata piena di pesanti responsabilità. Mentre osservava la sua agile, giovane mente farsi di giorno in giorno più impaziente, Anna si ricordò delle sue ambizioni e raddoppiò gli sforzi per aiutarlo nel suo desiderio di conoscenza. Aveva solo 10 anni, ma chi poteva dire quando avrebbe esercitato il potere assoluto sulla vita di milioni di persone? Le materie che appassionavano di più la fervida immaginazione orientale dei regali allievi erano la geografia e l'astronomia. Ognuno aveva la sua idea sulla forma della Terra e ci vollero molte pazienti ripetizioni per convincerli che non era né piatta né quadrata. L'unica cartina che avevano visto era una vecchia mappa che era stata fatta 25 anni prima per ordine dell'ultimo re, l'usurpatore, il fratellastro più vecchio dell'attuale re. Era stata disegnata dal primo ministro dell'epoca, che era migliore come politico che come cartografo. Era lunga 1,5 metri e larga 1. Al centro, sopra un campo rosso di 50 centimetri per 30, era stata attaccata una figura umana ritagliata su carta d'argento. Era il re del Siam. In testa un'enorme corona con molte punte indicava i suoi vasti possedimenti. In una mano teneva un albero del pane, simbolo di abbondanza, e nell'altra un forcone, simbolo della distruzione di tutti i suoi oppositori. Su 3 lati e su una parte del quarto c'era un grande spazio blu che rappresentava l'oceano. Sopra c'erano minuscole navi, barche e giunche che veleggiavano in ogni direzione. a dimostrazione della vastità del commercio siamese. Appena sopra la macchia rossa ce n'era una verde di 30 cm per 10 che rappresentava la Birmania. Nel centro, con inchiostro indiano, era disegnata una rozza figura senza abiti né corona. Il re della Birmania. Attorno a lui orribili demoni rappresentavano il disordine e il malgoverno che regnavano nel piccolo regno. A nord della parte verde era dipinto un grosso inglese che indossava un bicorno con piume rosse e teneva in mano un enorme pezzo di terra. Questa era la Birmania inglese e l'inglese che la reggeva era Lord Clive. Ma per quanto inadeguata fosse la conoscenza dei bambini della geografia terrestre, la loro conoscenza della geografia celeste era sorprendente. Descrivevano ad Anna con una ricchezza di particolari pittoreschi le montagne e i mari di questi paesi lontani, la tartaruga sulla cui schiena riposavano e i pesci che ribollivano nell'oceano quando stava nascendo il mondo. Ogni volta che sorgeva una differenza di opinioni tra di loro, ad esempio sull'altezza delle montagne o la profondità di un oceano nel mondo celeste, facevano riferimento a un libro siamese che si intitolava Trai Pum Lok Vinichai, che secondo loro chiariva tutte le questioni sui tre regni degli angeli, dei demoni e degli dei. Anna non discusse con loro, ma li ascoltò con interesse. Allo stesso tempo però inviò una richiesta al re per ottenere cartine e mappamondi. Sua maestà rispose prontamente con una grossa mappa inglese e un mappamondo con la sfera celeste e terrestre. Il mattino in cui questi arrivarono al Tempio delle Madri dei Liberi suscitarono un enorme interesse. Il re aveva fatto montare la mappa in una pesante cornice d'oro. Per 9 giorni folle di donne vennero per imparare la geografia e l'astronomia. Per loro era duro vedere il Siam ridotto a un puntino sul globo. L'unica cosa che le consolava era che l'Inghilterra, il paese della loro insegnante, era ancora più piccolo. Passato il primo momento di eccitazione, le donne restituirono l'aula ai bambini. I figli del re iniziarono a godersi le loro lezioni con la mappa e il mappamondo. Un giorno, mentre erano occupati a disegnare il fiume Nilo, accadde qualcosa che doveva cambiare profondamente la posizione di Anna nell'harem. Stava raccontando ai bambini il suo lungo viaggio in Egitto, anni prima, quando all'improvviso dal soffitto a volta cadde, proprio nel centro della mappa spiegata sul tavolo, un rotolo che a prima vista sembrava una spessa corda di seta ben arrotolata. In un attimo il rotolo si aprì e iniziò ad allontanarsi lentamente. Anna gridò e, dimentica della sua dignità, volò all'estremità più lontana del tempio convinta che i bambini la seguissero. Quando si voltò, fu sorpresa nel vedere che tutti erano rimasti seduti tranquilli al loro posto, con le mani davanti al viso, in atteggiamento di venerazione. Tutti gli occhi erano fissi sul serpente che si muoveva pigramente lungo il tavolo. Piena di vergogna, Anna ritornò al suo posto a guardare la bella creatura. Subì persino un certo fascino mentre fissava gli occhi chiari del serpente. Non ne aveva mai visto uno simile. Lentamente il serpente scese dal tavolo. Per Anna ogni secondo durò un'ora. Quando dal tavolo cadde sul bracciolo della poltrona del principe Chulalongkorn, trattenne il fiato terrorizzata. Cosa sarebbe successo se il bambino si fosse mosso e il serpente lo avesse attaccato? Non aveva dubbi che la sua vita sarebbe stata in pericolo se il principe ereditario fosse morto mentre era affidato alle sue cure. Ma non doveva preoccuparsi perché lui era immobile come il Buddha che brillava nella penombra dietro di lui. Anna non riuscì a inghiottire né a respirare finché non vide il serpente scendere dalla sedia e scivolare lungo il corridoio e sugli scalini per scomparire alla vista sotto la base di pietra. Allora quasi svenne per il sollievo. Nessun bambino si era mosso e nessuna mano si era abbassata dalla posizione reverenziale. Ma nel momento in cui il serpente scomparve, i bambini regali saltarono dalle sedie e si radunarono intorno a lei con la gioia più selvaggia. Caddero ai suoi piedi, le fecero un salamelecco e l'accarezzarono, parlandole così rapidamente che non riuscì ad afferrare una sola parola. Quando la notizia si sparse nell'harem, le donne arrivarono di corsa per salutarla con affetto e per riverirla come non avevano mai fatto prima. Cercavano di dirle che gli dèi evidentemente l'amavano, altrimenti non avrebbero mandato un segno di buon auspicio in suo favore. Le assicurarono che lo scivolare del serpente sul tavolo era pieno di segnali benevoli e che la caduta sul bracciolo della poltrona del principe era un segno inconfutabile che un giorno sarebbe stato famoso per saggezza e conoscenza. E non era un serpente qualsiasi, era il Sarparatta sanscrito, il serpente rosso che porta segreti messaggi degli dèi. Anna non sapeva se essere divertita, seccata o compiaciuta. Persino il re, quando udì del comportamento del visitatore, rimase impressionato. Rese noto l'avvenimento ai saggi del paese e tutti furono concordi che era un riconoscimento meraviglioso che arrivava dall'alto. Dopo la comparsa improvvisa del serpente, Anna per giorni si sentì non poco a disagio e segretamente sperò di non ricevere mai più quel favore dagli dèi, ma non mise le donne dell'arema al corrente dei propri pensieri. Qualsiasi pregiudizio avessero avuto contro la fondazione di una scuola inglese nel Palazzo Reale era scomparso. Da quel momento Anna fu trattata con grande considerazione e rispetto ed era grata. Un'altra delle barriere impalpabili contro cui aveva lavorato era caduta. 15. La città palazzo. Il palazzo, che all'inizio le era sembrato troppo complesso per poterlo capire, gradualmente per Anna prese proporzione e forma. In realtà era una città murata e fortificata di forma rettangolare che ricopriva più di 2 chilometri quadrati. Mura parallele che correvano da est a ovest e la dividevano in 3 sezioni. La sezione nord comprendeva la sede del governo. C'erano l'armeria, le baracche per le guardie del palazzo, gli uffici del governo, la borsa e la Suprema Corte di Giustizia. C'erano inoltre gli edifici della Cappella Reale al cui centro si trovava il magnifico Tempio del Buddha di Smeraldo. Nella zona nord gli uomini si muovevano liberamente per affari ufficiali. Il recinto di mezzo era quasi altrettanto grande, vi si accedeva tramite 2 serie di cancelli doppi che si trovavano nel muro che lo separava dalla prima sezione. Era semi privato, gli uomini vi erano ammessi solo per certi lavori e in certe occasioni vi si trovavano la zecca, la tipografia privata del re, un certo numero di padiglioni, teatri e voliere riccamente dorati e decorati. Era dominato da 2 edifici, il palazzo Amarind Winichai, o Sala delle Udienze di Indra, dove Anna era andata la prima volta con il capitano Bush. Vicino c'erano le voliere più grandi, così grandi che vi erano stati piantati degli alberi su una montagna in miniatura. Intorno, su tutti i lati, c'erano dei padiglioni decorati in stile cinese, dove si riunivano la corte e la nobiltà per assistere a processioni come quella connessa alla tonsura reale. All'estremità occidentale, verso il fiume, c'era il secondo edificio per importanza. Era il maestoso tempio cruciforme del Dusit Mahaprasat, dove i re erano stati incoronati e dove le loro spoglie erano esposte in urne dorate sull'imponente altare d'oro. Il tetto era di piastrelle smaltate e ognuna delle 4 ali era coperta da un tetto a 5 piani. Nel punto in cui i tetti si incontravano, si alzava una guglia d'oro retta da 4 enormi uccelli. Le terrazze erano arredate da sculture e grandi vasi da incenso in bronzo, i cui colori scuri e le forme aggraziate contrastavano piacevolmente con il bianco brillante dell'edificio. Ma sia il primo che il secondo recinto per Anna erano un semplice preludio al muro che li separava dal terzo, la città del Nang Ham, dove lei lavorava. Non solo quest'area era protetta a nord dalla doppia cintura dei 2 recinti, era protetta anche a est, ovest e sud da un muro interno che correva parallelo al muro esterno del palazzo. I pesanti cancelli doppi di quest'ultimo erano controllati da uomini, quelli del primo, un po' meno pesanti, dalle amazzoni. Il cuore di tutta la cittadella reale si trovava all'interno del palazzo dove viveva il re. Era a ovest dell'harem, dietro le sue mura. Era collocato in modo da poter essere raggiunto dall'esterno attraverso cancelli rigorosamente controllati e dal secondo recinto. L'edificio più imponente al suo interno era una grande sala per le udienze dove venivano ricevuti i diplomatici. Accanto c'era una sala per i banchetti e un museo in cui venivano collocati i doni che il re riceveva dai capi di governo stranieri. C'erano anche saloni da pranzo privati, una sala per le udienze per le donne del palazzo e numerose residenze con camere private, una cappella, un'armeria e un edificio per la segreteria. Tra questo elaborato insieme di edifici e la cappella reale, all'estremità nord-est della città murata, si ergeva il vecchio palazzo del padre del re, adesso quasi inutilizzato, ma conservato dal re in ricordo della memoria di Sua Altezza Reale. Le finestre del palazzo del re si aprivano su ricchi giardini a terrazze, con alberi di arance e di melograni che crescevano in costosi vasi cinesi. Le foglie appuntite di lecci e di oleandri gettavano ombre sui pavimenti di marmo. Si udiva il continuo gorgogliare di fontane. Con stupore Anna aveva scoperto una descrizione della città interna in un libro del venerabile vescovo Palois, che era morto poco dopo il suo arrivo. Nel terzo recinto c'è un giardino considerevole che contiene in miniatura una rappresentazione del mondo con boschi, montagne, campi coltivati, un mare con le isole, vascelli da guerra e mercanti di ogni nazione. Questo scriveva il vescovo. Lo chiamano il Giardino delle Delizie o il Paradiso Terrestre, è un modello di quello di Pechino. Poiché le persone che vi abitano non hanno mai visto il mondo e non lo vedranno mai, continua il vescovo Palois, hanno un concetto inesatto di quello che contiene. Di notte è illuminato da lampade e le signore dell'harem si ritirano in giardino e lì si divertono, se lo vogliono, fino al mattino. Questo era stato scritto nel 1828. Anna non riuscì a trovare traccia dei cosiddetti manichini che rappresentano le diverse razze della terra. Ma c'era un bel giardino vicino al palazzo del re e all'interno dell'harem, che per il resto sembrava rispondere alla descrizione del vescovo. Non lontano dal giardino c'erano le baracche delle amazzoni e la sala con le colonne dove, come nei tempi antichi, donne magistrato giornalmente amministravano la giustizia per gli abitanti della città delle donne. Vicino al tribunale, in un boschetto, c'era il Tempio delle Madri dei Liberi, dove Anna insegnava, e a fianco il teatro e il ginnasio, dove ogni pomeriggio le donne più importanti si riunivano a spettegolare, a giocare e a guardare le danzatrici. Anna non fece molta fatica a capire che qui, come in ogni altra città del mondo, c'erano zone residenziali signorili e zone povere. Immediatamente a sud del muro che divideva la città interna dai recinti centrali c'erano alcune delle abitazioni più belle. Si trovavano qui i palazzi delle principesse, le figlie dell'ultimo re, a cui non era permesso sposarsi a meno che non lo desiderasse il re in carica, dal momento che non esisteva nessun altro di rango sufficientemente alto e un'alleanza straniera era impensabile. Qui vivevano anche le favorite del re con i loro numerosi schiavi e servitori personali. In questa parte della città c'erano strade pulite, piccoli parchi, gruppi di alberi sparsi su prati in miniatura e bellissimi giardini fioriti. Un passaggio coperto portava dall'harem al palazzo del re. All'estremità in cui iniziava la zona consacrata alla famiglia reale c'era un bassorilievo che rappresentava la testa di un'enorme sfinge con una spada confitta in bocca e la seguente iscrizione. Meglio che una spada ti trafigga la bocca che tu possa dire una parola contro colui che regna in alto. Quando Anna la vide, pensò alle innumerevoli donne che si erano fermate per la prima volta a leggere le sinistre parole e, nonostante la giornata fosse calda, rabbrividì. Nella zona sud della città, la parte meno bella e più popolosa, c'erano i mercati, i laboratori delle donne falegname e fabbro e i quartieri delle schiave. A nessun uomo era permesso entrare nella città dell'harem, a eccezione del re e dei monaci che vi si recavano sotto scorta per le funzioni religiose. Le schiave potevano uscire per andare a trovare i mariti per alcuni mesi all'anno o per fare commissioni per le padrone, ma alle padrone questo privilegio era concesso raramente e solo dopo avere ottenuto un certo livello di libertà in virtù dell'età e della posizione. Il re Monkut, più liberale dei suoi predecessori, a volte permetteva alle sue consorti e alle loro damigelle di uscire per qualche occasione importante, come la cremazione di un genitore, ma per la maggior parte la città era il mondo, un mondo di 9.000 donne racchiuso dentro le sue alte mura. Le donne dell'harem per Anna erano una massa indistinta di esseri umani, ma col passare del tempo la massa si trasformò in individui. Prima fece la conoscenza delle mamme dei suoi allievi, la loro posizione come Chao Chom Manda, madri dei figli reali, le collocava in una classe a parte. Delle 9.000 donne, solo 30 avevano questo onore. La maggior parte di queste erano le figlie di nobili che le famiglie avevano offerto al servizio del re. Alcune vivevano a palazzo dall'infanzia come ancelle dell'una o dell'altra principessa. Ogni principessa aveva il suo personale, grande o piccolo, con molte piccole cameriere e ognuna all'interno del suo piccolo ambito poteva fare quello che voleva. Alcune eseguivano meravigliosi ricami e li insegnavano anche alle loro ancelle. Altre facevano fiori di carta o di cera, altre ancora sapevano intrecciare fragili lampadari, mantovane, tovaglie. Alcune leggevano romanzi, poesie e commedie e lo insegnavano anche alle loro ancelle, altre passavano lunghe ore giocando d'azzardo. Le ancelle prestavano piccoli servizi alle loro padrone e in cambio venivano educate alle raffinatezze della vita di palazzo. Dal momento che non esistevano scuole per le ragazze, questa era l'unica possibilità di avere un'istruzione. Era considerato un onore per una famiglia avere una figlia a palazzo nell'una o nell'altra veste, perché se coglieva l'interesse del re o del futuro re per la famiglia, significava miglioramento sociale, benessere e posizione. Come alle principesse, alle consorti reali venivano affidate le figlie dei parenti o degli amici. Gli appannaggi che il re dava loro non erano sufficienti nemmeno a vivere in modo modesto, ma la maggior parte era indipendente economicamente. Alcune delle consorti e la maggior parte delle principesse erano altezzose nell'esigere gli onori che erano loro dovuti. Molte, tuttavia, erano dolci e affascinanti. Anna divenne presto amica di una di loro, Lady Tiang, madre della principessa Somawadi. Era la più importante delle mogli reali. Aveva circa 30 anni, pallida al punto da sembrare bianca, con occhi neri come la pece. Aveva dato a sua maestà più figli di chiunque altra, pur non essendo mai stata la sua favorita. Gli aveva dato 4 figlie e 3 figli e le sue maternità l'avevano messa in posizione preminente. Adesso che erano morte entrambe le regine, era diventata capomoglie, non per editto ma per consenso e per il rispetto in cui era tenuta. Inoltre, per quanto aveva visto Anna, amava davvero il re come marito. A sua volta lui le aveva riconosciuto autorità nominandola sovrintendente alle cucine reali. Era una posizione estremamente proficua che aveva molti vantaggi, tra cui 2 case. Una era la sua, dove allevava i figli, un signorile edificio pittoresco con la facciata decorata a stucco nella zona più elegante della città interna, in mezzo a un bel giardino. L'altra era vicino alle cucine reali e lì lei passava la maggior parte della giornata scegliendo e a volte preparando prelibatezze gustose per la tavola reale. La sua naturale semplicità l'aveva fatta amare e in virtù della sua immensa ricchezza e influenza si era attirata altre simpatie. Era sempre pronta ad aiutare le altre donne dell'harem. Metteva fine alle piccole dispute, intrighi e tradimenti con la frase «Certo, per lui è meglio non sapere tutto, sa già troppo». Un'altra donna che interessava Anna, anche se non era riuscita a conoscerla intimamente, era la bella principessa Tongo Sopia. Era malese, la sorella del sultano Mahmud, ex rajà di Pahang. Il re si era perdutamente innamorato di lei quando era stata presentata a corte e se l'era procurata per l'harem contro la sua volontà. Era musulmana, comunque, e mantenne verso il re buddista un atteggiamento di tranquilla indifferenza. Il re presto si stancò della sua freddezza e la lasciò a condurre un'infelice vita di abbandono all'interno delle mura del palazzo. Ma lei Sembrava indifferente anche a questo. Quando la incontrava, Anna le parlava in malese, ma la conoscenza rimase a livello di pura cortesia. Tra il personale amministrativo, che era molto vasto e comprendeva 400 amazzoni, 12 giudici, amministratori, becchini e molti altri ufficiali, la persona che Anna trovava più interessante era il capo dei giudici del Tribunale delle Donne. Come la maggior parte degli ufficiali dell'esecutivo, non era mai stata una consorte reale. Il suo titolo era Kun Tao Ap ed era insolitamente alta e imponente per una donna siamese. La sua unica bellezza era la forma delle mani e delle braccia. Il suo naturale riserbo impediva l'intimità, ma ben presto lei e Anna diventarono amiche. Sia lei che Lady Tiang si interessavano molto a Davis e durante il 1° ottobre che Anna passò in Siam per il compleanno della bambina, entrambe le mandarono un vestito di seta. Kun Tao Ap accompagnò il regalo con un biglietto in cui scriveva che studiava l'inglese con sua madre. Era una donna religiosa, corretta e molto seria. Ogni frase che diceva era studiata, non perché desiderasse fare impressione, ma per discrezione. Per lei una certa apprensione era normale. Si era assicurata il suo alto incarico grazie all'attenzione e alla capacità di penetrazione e lo aveva mantenuto dimostrandosene all'altezza. Nonostante l'enorme potere, conduceva un'esistenza modesta e persino austera. Viveva sola in una casa semplice alla fine di una delle strade principali. Aveva liberato tutti i suoi schiavi, tranne i 4 che le erano più fedeli e che costituivano tutta la servitù. Ma nessuna di queste donne interessava Anna come Lady Son Clean, profumo nascosto. Non le ci volle molto per escogitare un modo per vedere la studentessa spaventata, tranquilla e desiderosa di imparare. Un pomeriggio Anna si diresse rapidamente verso la donna prima che potesse scappare via e le chiese se non le sarebbe piaciuto venire per 1 o 2 dopo la scuola per fare lezione di inglese, dal momento che aveva di gran lunga superato la fase in cui Boy poteva esserle d'aiuto. Un sorriso le illuminò il viso e per un attimo diventò bella. «Mi insegnerebbe?» chiese incredula. «Ma signora, non vale la pena che sprechi il suo tempo prezioso con me?» «Non spetta a lei decidere», rispose fermamente Anna. «Sarò io a giudicare quando vedrò cosa può fare». Lady Son Clean gridò estasiata, poi si prostrò per terra e abbracciò i piedi di Anna. Era una allieva diligente, poiché non era nelle grazie del re, si era dedicata completamente al figlio, il principe Krita Pinian, che aveva 9 anni, uno solo meno del principe Chula Longkorn. Il re era un padre affettuoso per quei figli le cui madri lo soddisfacevano, ma se la madre non era nelle sue grazie, anche il figlio ne pagava lo scotto. Quindi il principe Krita, malgrado fosse il secondo figlio vivente del re, come la madre non si sentiva voluto. Lady Son Clean fu cauta nell'accettare l'amicizia che Anna le offriva con altrettanta cautela. A poco, tuttavia, le lezioni e le conversazioni quotidiane diventarono i loro momenti più felici. Più il tempo passava, più i suoi occhi scuri sembravano più calmi, anche se parlava raramente di sé e dei suoi guai. Anna apprese che era una Mon o Peguan di discendenze reali. Il suo bisnonno era stato portato in Siam come ostaggio ed era stato messo a capo delle truppe dell'esercito dal primo re Chakri, che lo riteneva una persona fidata. All'epoca non esisteva un'armata siamese, se non un esercito irregolare arruolato in periodo di guerra. Le uniche forze permanenti erano reclutate tra i prigionieri e i loro discendenti, a cui veniva richiesto di prestare 4 mesi all'anno di servizio militare. Le truppe Mon, sotto il bisnonno di Son Clean e poi di suo figlio e di suo nipote, avevano il compito di proteggere Bangkok dalla parte del fiume. Suo padre era governatore di Paklat, una delle città sul fiume. Nel corso degli anni la famiglia si era arricchita e il padre di Son Clean, alla nascita del principe Krita, gli aveva regalato un palazzo. Aveva altri parenti che erano al servizio del governo, ma anche loro avevano perso i favori del re, che era fortemente prevenuto contro i Mon e gli annamiti. Quando la conoscenza si approfondì, Lady Son Clean invitò Anna ad andarla a trovare. Dopo di allora, le lezioni di inglese a volte si tenevano nella sua piccola casa senza pretese. Il ritegno di Son Clean, tuttavia, non si sciolse se non quando ad Anna capitò di passare a trovarla nel giorno di riposo siamese. Mentre la schiava la conduceva in una piccola stanza, che avevano definito dignitosamente lo studio, vide l'amica inginocchiata in preghiera nella stanza adiacente. Sull'altare davanti al quale Lady St. Clean era prostrata, c'era un'immagine dorata del Buddha, mentre dall'altra parte erano appese le foto del re e di suo figlio. La stanza era coperta da un'allegra tappezzeria dipinta a mano nello stile birmano. Lei aveva gli occhi chiusi e una gioia trasfigurava completamente la sua faccia semplice. Sembrava in comunione diretta con lo spirito infinito, dimentica di tutto il resto. Anna entrò tranquillamente nello studio e aspettò che terminasse le preghiere. In breve, la voce chiara di Lady St. Clean chiese ad Anna di raggiungerla nel santuario. Anna si sedette sul pavimento vicino a lei davanti all'altare. «Ha visto la mia tappezzeria?» chiese. «L'ho notata entrando», rispose Anna. «È molto allegra per la sua piccola cappella». «Vedo che non ne capisce il significato», disse St. Clean e gliene spiegò l'allegoria, in parte in siamese, in parte in un inglese incerto. «Quel grande albero là sono io quando ero giovane, ignorante, godevo delle cose terrene». Poi sono stata portata in dono al re e penso a quanto sono grande e quanto diventerò ricca. Poi, vede, mi curvo e le mie foglie avvizziscono e cominciano a cadere e io sono distrutta e sradicata dal dolore e dall'umiliazione. Poi vengo portata da un fiume impetuoso verso la distruzione, ma un piccolo fiore ferma la mia corsa verso il basso. Vede, com'è bello? Quel fiorellino è mio figlio». Esce proprio dalle acque che minacciavano la mia fine e poi si trasforma in un giardino che fiorisce sul tronco dell'albero per nascondere alla mia vista quello che mi renderebbe di nuovo triste. E adesso sono sempre felice, vede? Dopo essere rimaste in silenzio per alcuni minuti, Anna, un po' esitante, chiese con curiosità: «St. Clean stava pregando quell'idolo?» Lei di profumo nascosto non rispose subito, poi posò delicatamente la mano sul braccio di Anna e spiegò: «Devo dire di lei, cara amica, che adora l'immagine che ha nella mente del suo Dio e non il Dio vero. Quindi non dica di me che adoro l'immagine dorata che vede, ma il grande essere che mi ha mandato la mia insegnante, il Buddha illuminato, la guida della mia vita».